Well done, Sarah. Complimenti, Sara. She managed to order without Lorenzo's help, and he's quite impressed. In fact, in the next part of this dialogue, you'll hear him saying, Non ha più bisogno di me. You don't need me anymore. To say not anymore or not any longer in Italian, you use the words Non più. And the verb goes in between. Do you remember at the Carabinieri station, Lorenzo said, Non succederà più. It won't happen anymore. Listen to these examples. È stanca? No, non sono più stanca. No, I'm not tired anymore. Ha fame? No, non ho più fame. No, I'm not hungry anymore. Vuole una sigaretta? No, grazie, non fumo più. No thanks, I don't smoke anymore. In the sentence, Non succederà più. The verb succedere to happen is used in the future tense. Succederà. In the next bit of dialogue, you'll hear the future tense of the verb to be. Essere. Sarò. I will be. Now listen to the other forms for this verb in the future. I'll be, you'll be, and so on. Sarò. Sarò. Sarai. Sarai. Sarà. Sarà. Saremo. Saremo. Sarete. Sarete. Saranno. Saranno. Saranno.